Avventurieri, i carovanieri stanno scappando a tutta velocità tra le dune. Avete poco tempo per decidere se tentare l'inseguimento. I carovanieri hanno già percorso 500 metri in 25 secondi, quindi si muovono a 20 metri al secondo. La vostra velocità massima, invece, è di 5 metri al secondo. Poiché la velocità si calcola dividendo lo spazio percorso per il tempo impiegato, quanto tempo impieghereste voi per percorrere 500 metri alla vostra velocità?